Avvertenze. Quando il Musalli esegue il rito di adorazione, si deve attenere alle norme e alle condizioni che ne regolano i rituali, tra le quali ci sono quelle di non parlare, di non guardare qua e là o fare movimenti estranei alla gestualità cerimoniale del rito. Nel corso del rito di adorazione, il Musalli non deve mai volgere lo sguardo in alto, non deve chiudere gli occhi, ma fissare costantemente il punto dove poserà la sua fronte nella prosternazione. Il Musalli deve fare ogni sforzo per concentrarsi nella solennità del momento, che è il suo incontro con Allah, rifulga lo splendore della sua luce, e non deve pensare a nient'altro che ad Allah, in condivisa è la sua divinità. Se durante l'esecuzione di uno dei cinque riti di adorazione della giornata al Musalli sorge il dubbio circa il numero delle raka'a già eseguite, deve adottare il numero minimo e completare il rituale in corso fino al termine della preghiera di Ibrahim. A questo punto, invece di fare il taslim, deve prosternarsi con il takbir e la giaculatoria della prosternazione e poi concludere con i due taslim rituali. Se il fedele ha fatto qualcosa in più per disattenzione o dimenticanza e si rende conto di ciò mentre sta ancora eseguendo il rituale, deve fare due prosternazioni prima del taslim, mentre se si rende conto dell'errore dopo il taslim, le due prosternazioni le esegue dopo. Con queste due prosternazioni, che si chiamano le due prosternazioni della dimenticanza, cioè Sajdat as-Sahwi, si rimediano i difetti del rito di adorazione. Nel caso che venga eseguita la preghiera in congregazione, se è l'imam ad aver dimenticato qualcosa, il Musalli lo avverte dicendo la frase Subhanallah. Se per una ragione giustificabile un rito di adorazione è stato perduto, il fedele deve eseguirlo immediatamente non appena cessi l'impedimento. E se non ha eseguito diversi riti di adorazione, deve recuperarli nel loro ordine cronologico. Se ha perduto una o più adorazioni delle cinque quotidiane, deve eseguire i cinque riti con l'intenzione di recuperare quello non eseguito. Non c'è scusante comunque per il differimento di un rito d'adorazione, tranne in tre casi: il sonno, la dimenticanza o il differimento per farlo con quello successivo durante il viaggio. È raccomandato il mettere davanti a sé una delimitazione fisica dell'area in cui si intende svolgere il rito. Questa si chiama sutra, è un solido, un tappeto, una linea. Se una persona passa tra il fedele che sta eseguendo il rito e la sutra, il Musalli può impedirglielo gentilmente, ma se insiste può farlo energicamente. Nel caso di rito congregazionale non si deve mai precedere l'imam nei gesti del rituale, ma seguirlo. Non si deve eseguire alcun rito di adorazione nei seguenti casi: quando il sole si sta levando dall'orizzonte, quando il sole è allo zenith, cioè il punto più alto da cui comincia a declinare, quando nel pomeriggio la luce del sole diventa gialla prima del tramonto.